di Margaret Landon, Anna e il Re. Sperling e Kupfer, editore, traduzione di Antonella Melegari. Prefazione della stessa autrice Margaret Landon. Conobbi Anna Leon Owens grazie al defunto dottor Edwin Bruce McDaniel. Egli tolse The English Governess at the Siamese Court da uno scaffale della sua libreria e me lo porse con il commento: Ecco qualcosa che dovrebbe leggere. Il governo del Siam ha fatto tutto quanto poteva per impedirne la distribuzione. Di fatto c'è stata una tale ostilità contro il libro che io tengo la copia nascosta per non rischiare. Presi il volume e mi sedetti. Fuori, il traffico di Nakhon Sri Thammarat nel Siam meridionale, le macchine che strombazzavano in continuazione, il passaggio delle carrozze tirate dai cavalli e lo scampanellio delle biciclette. Ogni tanto un elefante avanzava, goffo e maestoso, ma nel momento in cui iniziai a leggere, tutto svanì. Molte ore dopo emersi dalla storia, sorpresa di trovarmi ancora nel mondo attuale. Il dottor McDaniel aveva anche il secondo libro della signora Leon Owens, The Romance of the Harem, e divorai anche quello. Questo accadde quasi 15 anni fa. I miei sforzi per assicurarmene una copia non ebbero successo. Entrambi i libri erano esauriti da più di 50 anni. Ma l'entusiasmo che avevo provato mi portò a spingere diversi amici americani a leggerli, dal momento che ne esistevano copie nelle biblioteche di New York e di Chicago. Fu la mia amica e compagna di stanza al tempo del college che mi disse, nel 1937, perché non metti insieme le parti biografiche dei due libri e li trasformi in uno solo? Mi piaceva l'idea di presentare Anna Leon Owens a un pubblico moderno. La storia della sua vita in Siam era più che interessante, era un personaggio sorprendente. Trovavo le lunghe descrizioni tutt'altro che monotone, ma potevo capire che sembrassero tali a persone che non avevano un interesse particolare per il Siam. In effetti, un critico dell'epoca aveva proprio mosso questa obiezione in un articolo. Stavo ancora affrontando il problema, che sembrava insormontabile, di trovare una copia dei libri. Poi, il 17 marzo 1938, mentre mio marito cercava un libro sconosciuto sulla Cina nell'Economy Bookstore di Chicago, diedi un'occhiata alla sezione dei libri esauriti. Non credetti ai miei occhi quando sotto la lettera L trovai The Romance of the Harem, il romanzo dell'harem. Avevo quasi paura a guardare il prezzo, dato che una mia conoscente a Londra aveva pagato 3 sterline per una copia di The Governess. Sull'ultima pagina a matita era scritto 1 dollaro. Alcune settimane più tardi lessi sul giornale che Marshall Field avrebbe messo in distribuzione 50.000 libri fuori catalogo. Per quanto possa sembrare incredibile, trovai The English Governess a 50 centesimi dopo solo mezz'ora di ricerca. Un'attenta rilettura di entrambi i libri mi dimostrò che se volevo scrivere un lavoro coerente avrei avuto bisogno di più informazioni di quante non ne contenessero i romanzi. Non sapevo nulla dei discendenti della signora Leon Owens, se non che il figlio aveva gestito una ditta di legname in Siam e che era morto là. L'ultima fortunata coincidenza ebbe luogo nell'inverno del 1939, mentre mio marito pranzava con un gruppo di ministri a Evanston, in Illinois. Quando lo avevano presentato, avevano menzionato il fatto che veniva dal Siam, e il reverendo dottor Gerald Moore, decano di St. Hugh, aveva osservato: Alla mamma farebbe piacere conoscerla. Aveva un'amica. In realtà era la moglie di un cugino che molti anni fa ha vissuto in Siam. La mamma parla ancora della zia Annie e delle sue lettere dal Siam. Non sarà Anna Leon Owens? Chiese mio marito stupito. Sì, perché? Volle sapere il dottor Moore altrettanto stupito. È proprio il suo nome. Mio marito rapidamente considerò il fatto che erano trascorsi più di 70 anni da quando la signora Leon Owens aveva lasciato il Siam e disse: Sarebbe piacevole incontrare sua madre. Mia moglie e io nutriamo interesse per la signora Leon Owens e ci piacerebbe molto incontrare qualcuno che l'ha conosciuta. Gli occhi del dottor Moore brillavano mentre affermava: La mamma vive a pochi isolati da qua, le farebbe piacere venire a trovarla adesso con me? Beh, come risultato di questo incontro fortuito conoscemmo la sorella del dottor Moore, la signorina Kathleen Moore, e sua madre, la signora Lizzie Avis Moore, che all'epoca del ritorno di Anna Leon Owens dal Siam, nel 1872, era una ragazza che viveva in Irlanda e la ricordava chiaramente. I Moore organizzarono il mio incontro con la signorina Avis di Montreal, la nipote della signora Leon Owens, che mi fornì copie delle lettere e altro materiale utile. A questo punto vorrei esprimere la mia gratitudine ai Moore e alla signorina Avis. A quest'ultima sono debitrice non solo per il materiale e per il permesso di usarlo in questo libro, ma anche per la gentilezza nel rispondere alle mie numerose domande. Nell'autunno del 1939 iniziai la mia opera. Si dimostrò un compito molto più complicato e difficile di quanto avessi immaginato. Per un certo periodo mi ero interessata al regno di Re Mongkut e di conseguenza avevo letto molto sulla storia del Siam nel XIX secolo. Inoltre, nei 10 anni che avevo trascorso in quel luogo, durante 9 dei quali mi ero trovata in regioni in cui ero l'unica donna bianca, erano state raccontate molte storie che avevano fatto luce su un mondo completamente diverso dalla moderna Bangkok. Ma quando iniziai a mettere insieme la storia di Anna Leon Owens, scoprii che c'erano centinaia di domande specifiche che esigevano risposta se il risultato doveva essere coerente. Il Siam che io avevo conosciuto era diverso in una infinità di particolari da quello tra il 1862 e il 1872, decennio in cui lei era vissuta là. Per esempio, viaggiando in quel paese non mi capitò mai di vedere qualcuno che fosse stato marchiato, ma all'epoca di Anna Leon Owens era consuetudine che le persone di sesso maschile fossero marchiate sul polso sinistro con il simbolo del nobile al quale dovevano fedeltà. Quindi, per cercare di mettere ordine nelle esperienze che lei aveva registrato in modo così vivido, ritenni necessario raccogliere informazioni specifiche su avvenimenti storici oscuri per il lettore occidentale. Per esempio, su come le donne dell'harem accolsero Lord John Hay. La data e l'occasione della visita di Lord John a Bangkok furono estremamente difficili da reperire. Non le trovai che nel primo volume delle lettere del Re Mongkut che scoprii nella biblioteca del Congresso, tra i libri fuori catalogo in lingua siamese. Lui stesso, nell'ottava lettera della serie, aveva fornito una lunga descrizione dell'occasione e della circostanza della visita, anche se non parlava dell'incidente registrato da Anna Leon Owens. A quel punto fu possibile trovare anche parecchie lettere di Lord John Hay che si riferivano a quello che veniva chiamato l'incidente di Trengganu, in cui, col linguaggio attento della diplomazia, deprecava le azioni del governatore Kevenach. Sono particolarmente grata al dottor Philip Hammer degli Archivi Nazionali e al dottor Horace Poleman della Biblioteca del Congresso per aver messo a mia disposizione il materiale che mi ha aiutato nella ricostruzione del retroterra storico necessario al libro. Desidero esprimere il mio apprezzamento anche a Luang di Thakar Bhakdi, primo segretario dell'ambasciata thailandese, per aver trovato la forma corretta di nomi e parole oscuri, la cui traslitterazione è stata fatta con il sistema ufficiale usato dal governo della Thailandia. Il modo in cui i vari avvenimenti sono presentati nel libro rispecchia l'ordine con cui li ha presentati Anna Leon Owens stessa. Non è stato possibile mettere insieme i suoi scritti senza alterarne la lingua e lo stile. Per esempio, nella narrazione ho deciso di passare dalla prima alla terza persona. Due persone in particolare mi hanno aiutata e incoraggiata nei 4 anni di stesura e a loro sono particolarmente grata. Entrambe mi hanno spinto e mi hanno fatto superare ostacoli apparentemente insormontabili. Ho già citato una di loro, la mia amica Muriel Fuller. L'altra è mio marito, Kenneth Perry Landon, che mi ha incoraggiata a scrivere la storia di Anna Leon Owens, ha diviso con me il lavoro di ricerca, ha scoperto nuove fonti quando sembrava che fossero esaurite e, per altri versi, ha agito come ostetrico nel lungo parto di questo libro. 1. Bangkok, 1862. Il battello a vapore partito da Singapore gettò l'ancora all'imbocco del porto di Bangkok. Gli artisti di un circo si sporgevano dal parapetto dell'imbarcazione per avere una visione migliore della città. I loro cani addestrati abbaiavano furiosamente agli alteri e sprezzanti cani del capitano. Lontano dal gruppo chiassoso si notava una signora inglese con un abito di mussola color lavanda dal colletto alto e dalle maniche larghe. Era snella e aggraziata e il viso, incorniciato da riccioli castani, sarebbe stato grazioso se non fosse stato per il naso un po' troppo prominente. Gli occhi scuri scrutavano la linea dell'orizzonte mentre con la mano accarezzava una spilla d'oro dalla foggia curiosa con incastonati due artigli di tigre. Al suo fianco c'era un Terranova dall'aria mansueta. I cani del circo si avvicinarono, annusando e abbaiando, ma il Terranova non ricambiò i festeggiamenti. Era distaccato, tranquillo e dignitoso. Teneva gli occhi fissi sulla sua padrona che guardava la terraferma. Il sole stava sorgendo, il ponte era pieno di risate, di grida, i cani scorrazzavano, ma sembrava che un muro invisibile separasse la donna da tutta quella confusione. Un ragazzino di circa 6 anni salì dal ponte sottostante. Aveva capelli ricci e castani e occhi vivaci. Era vestito con cura ed era seguito da una governante indostana dal sari riccamente decorato. Aveva la stessa struttura fisica e la stessa aria delicata della signora inglese che se ne stava in disparte. «Mamma, mamma!» gridò arrivando di corsa davanti alla figura immobile. «Siamo arrivati!» Lei si voltò verso di lui sorridendo. «Sì, Louis, tra poco saremo a Bangkok. Vero, capitano Orton?» chiese all'uomo abbronzato con la divisa immacolata che stava alle spalle di suo figlio. «Ci arriveremo al sopraggiungere della marea», rispose l'ufficiale, «e passerai la notte a terra». Con Bessie, il Terranova che gli correva dietro, Louis si affrettò a dare la notizia ai lavoratori del circo. «Rimanigli vicino, Bibi», disse la donna in malese. «Bibi e Bessie sono i vostri angeli custodi, vero?» chiese il capitano. «Oh sì, mi sono molto fedeli», rispose lei con un debole sorriso. «Bibi e Monchi sono con me da prima che mi sposassi, e anche la vecchia Bessie fa parte della famiglia, darebbe la vita per noi». Il capitano Orton rimase un attimo silenzioso mentre una folata di vento gettava all'indietro i riccioli della donna. Si chinò verso di lei e le sussurrò all'orecchio: «Signora, dovrebbe avere al suo fianco un uomo. Una cameriera, un cane e un vecchio professore persiano non sono abbastanza. Non mi piace che vada là, è un luogo pericoloso». Arrossì sotto la pelle scura. «Perdoni la mia franchezza, ma non ha idea di come sarà». «Boh, dimentica che vivo in Oriente da quando avevo 15 anni». «Sì, nelle colonie, con soldati britannici a proteggerla, questo è il Siam». «Non posso tornare indietro adesso, capitano, ho dato la mia parola». Lui esitò, poi continuò: «C'è sempre il signor Cobb, è un gentiluomo ed è ricco». Lei arrossì e poiché non parlava, lui continuò con voce bassa ma appassionata: «E ci sono anch'io, come sa. Forse non sono un gentiluomo e di certo non sono ricco». Gli occhi di lei erano pieni di lacrime. «Caro capitano, lei è il gentiluomo che ha reso sopportabile questo viaggio, ma per me c'è stato solo Leon e non ci sarà mai nessun altro». Mentre guardava oltre l'orizzonte, una lacrima le rigò le guance. «Signora Leon Owens, voglio solo occuparmi di lei e di Louis». «Non posso permetterglielo». Alzò il viso verso il suo e per un lungo attimo lui la guardò negli occhi, poi si allontanò accigliato. A metà strada si girò e tornò indietro. «Sarò in porto ogni mese. Se ha bisogno di me, sarò al suo servizio». Adesso il sole era alto. Sentendosi più rassicurata, l'esile signora si preparò a scendere dal battello. 2. Dal Galles all'India. Era nata a Carnarvon, nel Galles, il 5 novembre 1834. Lì non c'è più nessuno che si ricordi di Anna Harriet, figlia di Thomas Maxwell Crawford e di sua moglie. Ma a un mondo di distanza, in una delle città più affascinanti dell'Asia, la ricordano ancora. Carnarvon era un bel posto per nascere. C'era un vento fresco che proveniva dal mare ed estate era piacevole camminare sulla terrazza che delimitava la città a nord e guardare il tramonto. Dalla parte opposta si ergeva il monte Snowdon. In inverno il vento impetuoso ne lambiva i fianchi e in primavera ai suoi piedi si potevano cogliere bucaneve e primule. La campagna conservava molti ricordi di un eroico passato. I romani non avevano mai completamente sottomesso la zona, nonostante avessero costruito sul suolo gallese parecchie roccaforti. A mezzo miglio dalla città si ergeva ancora l'accampamento da cui era partito Svetonio Paolino, sotto il comando dell'imperatore Claudio, con le corti che dovevano sterminare i druidi e le druide. I romani avevano messo a rogo sacerdoti e sacerdotesse sui loro altari e avevano distrutto ogni segno visibile della loro religione antica, ma non erano riusciti a soffocare nei cuori gallesi l'amore per la libertà. Né ci riuscirono gli inglesi nei secoli seguenti. Le mura che Edoardo I aveva costruito intorno alla città per rendere sicura la sua conquista erano ancora intatte nel XIX secolo, anche se il castello di Carnarvon, simbolo della sconfitta gallese, stava andando in rovina. Cresciuta nella terra degli Elfi e di Merlino, non era strano che Anna Harriet Crawford conservasse il vivido ricordo delle lettere imbucate durante l'infanzia negli alberi, indirizzate alle fate e ai folletti del bosco, dai quali aveva ricevuto le risposte più lusinghiere. E non era strano che avesse portato con sé negli anni un amore profondo per la libertà, una profonda fede religiosa, un coraggio e un orgoglio che non le vennero mai meno. Aveva solo 6 anni quando i suoi genitori salparono per l'India. Il capitano Crawford e il suo reggimento andavano a rafforzare le truppe là dislocate in vista di un'imminente guerra. La bambina venne affidata a una parente che dirigeva una scuola per ragazze. Non aveva ancora 7 anni quando la signora Walpole la convocò nel parlatorio e, prendendola tra le braccia grassocce, le annunciò che suo padre era morto da soldato al servizio della regina. In novembre, uno dei mesi dell'anno più belli in India, nell'anno 1849, attraccò nel porto di Bombay un piroscafo che portava tra i passeggeri Anna Harriet Crawford. Aveva 15 anni, era fresca di scuola e desiderava riunirsi alla madre che nel frattempo si era risposata. Il sole brillava tra la foschia dell'alba, mentre la ragazza scrutava dall'oblò della sua cabina piena di curiosità e meraviglia. Era graziosa, dall'aspetto delicato, con occhi scuri e capelli castani ondulati che portava con la riga in mezzo. In lontananza vide la banchina dietro cui si stagliavano templi dalle forme strane. Mentre la nave attraccava, c'era una gran confusione. I facchini urlavano carichi di pesanti bagagli, alcuni civili e militari si fecero largo tra la folla e salirono a bordo della nave. Un giovane cadetto, ritto vicino alla passerella, abbracciò un altro ufficiale a cui assomigliava molto, nonostante tra i due ci fosse una trentina d'anni di differenza. Anna si guardò intorno con ansia alla ricerca di sua madre, timorosa di non riconoscerla. Ma quando la vide, gli anni passati persero importanza. Lei sembrava un po' più vecchia, un po' più fragile, ma nient'altro. Si allontanarono felici dalla banchina con Anna che si sporgeva dalla carrozza, ansiosa di non perdere nulla di questo posto nuovo e strano. Sarebbero rimaste per un po' da amici e poi si sarebbero recate a Puna, dove il patrigno ricopriva un incarico importante. Nel frattempo avrebbero visto tutto quello che potevano di Bombay. In una delle prime gite si recarono al forte, poi al porto. Fu il primo impatto di Anna con il mondo del commercio. La sua vita fino a quel momento era stata talmente protetta che al massimo si era comprata qualche nastro nei negozi di Carnarvon. La grande piazza del porto di Bombay era piena di mercanti, bianchi e di carnagione scura, che gesticolavano e discutevano in una dozzina di lingue diverse. Questa massa umana barattò con pro e vendette per 6 ore, contrattando e combattendo una guerra stranamente eccitante. Alle 4, una lunga fila di carrozze salì verso i magazzini e si allontanò, portando con sé i mercanti bianchi. Anna rifiutò di allontanarsi finché non fu tutto finito. Provava un'insaziabile curiosità di vedere e sapere di più. 1 o 2 giorni dopo, con la madre, visitò i mercati e i bazar di Parsi. Videro il bazar di Bendi e il mercato dei cavalli arabi, videro i pellegrini che arrivavano dalla Mecca e assistettero all'arrivo di alcune belle schiave, che sarebbero state vendute privatamente tra i ricchi indiani. Ma l'esperienza che colpì più profondamente la giovane appena arrivata fu una cena offerta nella bella casa di una ricca vedova che si trovava vicino a Parel, un angolo incantevole dell'isola. La carrozza che portava Anna Harriet e i suoi genitori a destinazione percorse un lungo viale alberato fino a un edificio con alte colonne di pietra e con una grande scalinata. Sulle scale erano in attesa una mezza dozzina di servi con abiti di tessuto morbido e candido, turbanti dorati e cremisi, fasce blu e color oro. Anna Harriet osservò meravigliata il loro aspetto principesco. Si inchinarono davanti agli ospiti e poi con enorme dignità avanzarono per aiutarli a scendere dalle carrozze. Un altro gruppo di lacchè, altrettanto sfarzosi, li condusse verso un appartamento sontuosamente arredato dove gli ospiti lasciavano i soprabiti. Un terzo gruppo poi li accompagnò nel salotto dove la vedova Seduta al centro della stanza, li ricevette come una regina su una ottomana di satin giallo, circondata dai suoi ospiti. Ma erano i regali servitori indiani ad attirare l'attenzione di Anna. Per tutta la cena si mossero silenziosi, così leggeri che sembrava che i loro piedi sfiorassero solo il pavimento. Mentre offrivano agli ospiti cibi costosi e vini pregiati, sistemavano e toglievano i piatti senza il minimo rumore, candelabri a olio diffondevano una luce soffusa sui fiori, i bicchieri e l'argenteria. Il personale che non serviva a tavola stava in piedi a braccia conserte nell'ombra, sotto gli archi e le colonne, finché arrivava il suo turno. Erano tutti così immobili che se non fosse stato per il brillio dei loro occhi, sarebbero sembrati statue di bronzo. A tavola non si parlò che della dilagante supremazia britannica. La giovane sentì gli ufficiali, con le facce rosse per l'alcol, esultare per la dominazione inglese in India, cosa che la fece riflettere. Parlarono di campagne, di vittorie, con espressioni di disprezzo per i nativi, tra virgolette, i quali, era parere comune, dovevano essere tenuti regolarmente al loro posto. Il loro posto? Si chiese Anna Harriet, stranamente perplessa. E quale sarebbe il loro posto nel loro paese? Le risate, la boria, l'arrogante asserzione di superiorità razziale irritarono sgradevolmente la giovane ragazza gallese. Guardò gli indiani che si muovevano silenziosi. Ebbe la sensazione che dalle figure mute e immobili sotto gli archi e le colonne emanasse un potere controllato e per la prima volta le venne in mente che era una grande fortuna per gli inglesi trovarsi in India e poter vivere lussuosamente del loro bottino. All'improvviso la cena deliziosa, la musica delle fontane che si sentiva attraverso le finestre, il movimento e il colore attorno al tavolo, tutto le sembrò inopportuno, quasi irrepellente. Si chiese se gli uomini dalla pelle scura, in attesa nell'ombra, odiassero coloro che avevano conquistato la loro antica terra. Se dicessero a se stessi con disprezzo: «Abbiate pazienza, sciocchi, e saranno i vostri stessi coltelli a tagliarvi la gola». Il senso di minaccia si fece così forte che all'improvviso Anna Harriet provò il desiderio di sfuggire a questo esame muto. Se rideva per una battuta, sentiva quegli occhi neri che la osservavano, anche quando erano fissi nel vuoto. Provò un desiderio terribile di alzarsi e scappare, ma si sarebbe trattato di una grave infrazione all'etichetta. Rimase seduta ferma, cercando di far tacere la sua agitazione. La conversazione, molto vivace, si spostò sul governo in patria e ognuno al tavolo aveva la sua idea di come si sarebbe dovuto comportare. Anna Harriet sapeva di essere troppo giovane per capire, ma non era troppo giovane per percepire che nessuno a quel tavolo, a parte lei, era cosciente che quelle figure scure e silenziose erano uomini in carne e ossa. Quando alla fine uscì di casa, tirò un profondo sospiro di sollievo. Le sembrò di essere sfuggita a un pericolo incombente. Da quel giorno iniziò a pensare molto all'India e alla presenza dell'uomo bianco. Non parlava dei dubbi che la tormentavano perché i suoi pensieri sembravano molto diversi da quelli della gente che la circondava. Gli altri accettavano senza riserve il diritto degli inglesi di dominare e di arricchirsi alle spalle della povertà su cui si reggeva l'impero. Gradualmente l'eccitazione che l'aveva guidata nei primi giri per Bombay svanì. Fu in quel periodo che nacque la sua indipendenza intellettuale. Era convinta che ogni essere umano, di qualunque colore o religione, avesse certi diritti inalienabili che nessuno poteva permettersi di violare. Anni più tardi definì la rivolta indiana la giusta punizione per la nostra nazione. Dopo aver passato alcuni mesi a Bombay, Anna partì per Pune, l'ex capitale del regno indiano, con i genitori. Il paese era pieno di contrasti stravaganti, templi meravigliosi per gli dèi e abitazioni squallide per gli esseri umani, terre fertili e pianure desolate, enormi caverne scavate nelle montagne sulle cui pietre era incisa la romantica cultura del passato. Mentre la Dak, tirata dai cavalli, si muoveva rapidamente, la sua mente era occupata da molti pensieri. E quando alcuni giorni più tardi arrivarono all'approdo sul fiume Impalchis, il palanchino, i pensieri che l'avevano accompagnata non se n'erano ancora andati. Due cose importanti erano accadute durante la sua permanenza a Bombay. Prima di tutto si era innamorata di un giovane ufficiale inglese. Era il maggiore Thomas Lewis Leonowens, che aveva un incarico nell'ufficio del commissariato. Avevano deciso di scriversi e che quando Anna fosse stata un po' più grande si sarebbero sposati. L'altra cosa era che il suo patrigno non le piaceva. La sua antipatia cresceva ogni giorno. In famiglia era un tiranno. Sfortunatamente, per volontà di suo padre, il patrigno, insieme al colonnello Rutherford Sutherland, era il suo tutore, nonché esecutore testamentario. Le aveva lasciato capire di avere progetti per il suo futuro, cosa che in breve creò tensione fra loro. Voleva che sposasse un ricco mercante con il doppio dei suoi anni e non apprezzava l'amicizia col giovane maggiore. Ma la loro relazione continuò clandestinamente. Alla fine la mamma di Anna mise in piedi un progetto che allentò la tensione tra il marito dominatore e la figlia ribelle. Il cappellano della East India Company di Bombay, il reverendo George Percy Badger, amico intimo della mamma, aveva ricevuto l'incarico di visitare alcune chiese primitive in Egitto e in Medio Oriente. Lui e la moglie invitarono Anna Harriet ad unirsi a loro. Lei ne fu entusiasta e il patrigno non pose alcun veto, vista l'indipendenza economica della ragazza. Così, nel 1850, Anna lasciò Bombay con i Badger. In Egitto scrisse: «Abbiamo navigato sul Nilo e abbiamo visto tutto quello che valeva la pena di vedere. Le piramidi, Luxor, Tebe, Karnak, tutto!» Per una ragazza che amava viaggiare era un'esperienza meravigliosa. Inoltre il signor Badger le insegnò l'arabo e le trovò un insegnante di persiano, Monshi. Lui e sua moglie Miriam Bibi rimasero con lei per molti anni. Lavorare con il signor Badger, ascoltare le sue spiegazioni su quanto vedevano, aprì ad Anna Harriet le porte di un mondo sconosciuto. Le insegnò a osservare, a capire anche quello che non appariva in superficie, ma era evidente solo dopo uno studio attento. E per tutto il periodo in cui viaggiò, scrisse al suo Leon a Bombay. Quando ritornò a Puna, dopo quasi un anno, aveva preso una decisione. Si sarebbe sposata il più presto possibile, a dispetto dell'opposizione del patrigno. Leon scrisse che era tutto pronto per le nozze. Ho preso una grande casa ariosa in un'ottima posizione. È lontana dal forte, ma non ha importanza, visti i vantaggi che offre. Ho anche comprato un cavallo e alcuni mobili. La nostra casa sarà arredata, anche se non completamente, cosa per cui servirebbe una quantità enorme di denaro. Fino ad ora ho speso 1.100 rupie, per cui puoi capire che metter su casa non è uno scherzo. All'esterno c'è molto terreno e bei giardini di cui sarai contenta. Il consenso è molto caro e noi lo riceveremo nella chiesa di Puna. Sarebbe meglio evitare le spese superflue, ma voglio sapere che cosa ne pensi e che mi comunichi al più presto le tue decisioni. Per quanto mi riguarda, sono troppo felice che mia cara Anna diventi mia moglie, per dare importanza al modo in cui avrà luogo, anche se mi rendo conto che questa cerimonia, ci unirà per la vita. Si sposarono nel 1851 e fu una cerimonia intima. Come lei scrisse in seguito a un nipote, il mio patrigno si oppose con un tale vigore al matrimonio che da quel momento ogni corrispondenza cessò. Da parte sua, c'era un risentimento altrettanto profondo. Non fece mai ai figli e ai nipoti il nome dell'odiato patrigno e ancora oggi nessuno lo conosce. 3. La profezia dell'astrologo. La nuova casa si trovava in Malabar Hill, completamente isolata dal resto del mondo. Nel punto più alto della collina, staccata e sola, si ergeva un'alta torre. Era una torre del silenzio dove i seguaci di Zoroastro portavano i loro morti. Dall'altra parte di questo angolo temuto e non lontano da una foresta di palme, c'era una casa solitaria che tutti chiamavano la Follia di Morgana. Il suo costruttore era tornato in Inghilterra 10 anni prima per problemi di salute e un dissesto finanziario e da allora era rimasta disabitata. Fu qua che il maggiore Leon Owens portò la sua sposa. Il primo proprietario aveva amato gli uccelli e la casa era costruita in modo che li potesse ospitare. La giovane coppia la chiamò immediatamente Lavoliera. Il piano basso era fatto di pilastri di pietra uniti da balaustre di ferro battuto con disegni che ricordavano la rosa persiana e il lillà buddista. La maggior parte degli uccelli rari che vi avevano vissuto un tempo se n'erano andati, ma c'erano ancora dei suruk o petirossi dall'ugola meravigliosa, il maina o passero di Giava, il bulbul o usignolo indiano e lo zina, un piccolo uccello litigioso. Il piano superiore era in teak. Un balcone dal disegno elaborato correva intorno all'edificio. Dalla torre sul lato est della casa si vedeva il panorama più bello dell'isola. Era stata costruita intorno a un baobab gigantesco che si trovava probabilmente lì da secoli e aveva assunto quindi un aspetto singolare. Il giardino era ricoperto di arbusti. Il giardiniere aveva detto ad Anna che vi abitavano rettili di tutti i tipi, che però non dettero alcun segno di vita finché un gruppo di incantatori di serpenti un mattino attirò allo scoperto parecchi grossi cobra. La stanza sulla torre era la preferita della coppia. Era arredata con pochi mobili semplici, un tappeto persiano, tende a ogni porta e finestra che impediva l'accesso agli insetti. Il resto della casa era arredato con la stessa semplicità e le pareti erano dipinte in colori pastello. A occuparsi di questa semplice dimora c'era un esercito di servi, tutti molto rigidi sui limiti delle proprie mansioni. Il maggiordomo, anziché mantenere calma la servitù, era il primo a incitare alla rivoluzione ogni volta che la Mem Sahib voleva che si facesse a modo suo. Il cuoco si ubriacava ogni volta che c'erano ospiti a cena. L'addetto all'accensione delle lampade chiedeva di andare a seppellire la madre almeno 3 volte al mese. C'era un bisti che riempiva solo la vasca e non faceva altro. O un Jaruvala che veniva ogni mattina, spazzava la casa e il terreno e poi scompariva fino al mattino successivo. Anna avrebbe voluto liberarsi di qualcuno, ma ogni volta che affrontava il problema, loro univano le forze e la costringevano a tenerli tutti. Oltre alla servitù c'era un maestro, un pandit, che veniva mattino e sera per insegnare il sanscrito e l'indostano. Faceva parte dell'incarico del maggiore Leon Owens viaggiare parecchio e la coppia aveva visitato quasi tutte le città dell'India. Quando non viaggiavano, studiavano o visitavano Bombay, c'erano un mucchio di cose da vedere e imparare, era una vita piena. Una volta si fecero leggere il futuro da un famoso sacerdote addetto al fuoco, astrologo. C'erano riusciti solo grazie all'intercessione di un amico Parsi del loro vicino inglese. Partirono alle 6 di sera e dopo un lungo viaggio la carrozza si fermò davanti a un edificio in rovina. Il balcone, sorretto da colonne di legno, sporgeva sulla strada. Il loro vicino inglese, che conosceva la casa, li condusse al primo piano. Bussò a una porta molto vecchia, socchiusa, e una voce debole li invitò a entrare. Si trovarono davanti all'astrologo che non si mosse né parlò né girò lo sguardo verso di loro. Da un anziano servitore etiope vennero fatti accomodare su alcuni cuscini e rimasero in attesa finché il maestro ebbe finito le preghiere serali. Nel centro della squallida stanza c'era uno sgabello a 3 gambe, sopra cui era appoggiata una lampada rotonda di terracotta piena di olio di cocco con 7 stoppini accesi sui lati. Davanti stava il prete astrologo con un sudicio abito che gli arrivava ai piedi scarni. Mentre le sue labbra si muovevano in preghiera, le dita sottili passavano ripetutamente sopra un filo sacro, simbolo della sua fede. Il riflesso di una luce all'interno rendeva luminosi i suoi lineamenti pallidi. L'espressione serena del viso emanava una sensazione di pace e gli ospiti non si accorgevano di quanto fosse incredibilmente vecchio. Quando finì di pregare, il prete si tolse il lungo abito e il cappello scuro a forma di cono che indossava e si infilò una giacca grigia e una papalina che rivelò qualche ricciolo di capelli grigi. Poi si girò verso l'inglese, con gentilezza gli prese entrambe le mani e lo salutò portandosele alla testa 3 volte e fece lo stesso con i giovani. Poi si sedette a parlare con loro. Dopo un'ora osarono chiedere di leggere i loro oroscopi. Lui si alzò immediatamente, compiaciuto della loro richiesta, e li condusse in una piccola stanza attraverso un passaggio su per una vecchia scala di legno. Verso il cielo si apriva una curiosa botola che poteva venire chiusa in caso di pioggia. In un angolo della stanza c'era una panca, nel mezzo un tavolo rotondo che ruotava su un perno, dipinto con curiosi geroglifici e al suo fianco uno sgabello a 3 gambe. Non appena si furono seduti sulla panca, il prete estrasse una lavagna e un pezzo di gesso. Poi, in indostano, rivolse ad Anna parecchie domande sulla sua nascita. A ogni risposta faceva dei segni sulla strana lavagna. Questo lo tenne occupato per un po'. Ogni tanto sembrava in dubbio e cancellava e sostituiva disegni e figure. Dopo che ebbe finito, iniziò a confrontare i suoi geroglifici con quelli del tavolo. A quel punto alzò la faccia pallida verso il cielo che si intravedeva dalla botola. Le stelle, che avevano presieduto la nascita di Anna, non dovevano essere favorevoli. Le predisse parecchie morti tra parenti e amici e lunghe separazioni dalle persone amate, ma alla fine rese meno dura la sua profezia, predicendole una lunga vita, una vecchiaia felice e un gran numero di nipoti e pronipoti. Poi lesse il futuro del marito, che era ancora meno favorevole dal momento che l'ombra di uno dei grandi pianeti attraversava il suo cammino a metà della vita. Il vecchio prete scosse la testa, ma se sopravviverai, concluse, avrai una vecchiaia felice e prospera con i tuoi pronipoti intorno. Non era tanto quello che il vecchio aveva detto che impressionò la coppia, quanto la sua convinzione di avere interpretato correttamente la posizione delle stelle e il loro implacabile significato. Colpivano i riccioli ondeggianti ormai grigi, l'espressione seria, profonda e contemplativa del viso. Sembrava portare dentro di sé i misteri delle stelle, mentre il suo cuore leggeva il segreto destino delle vite umane. Mentre si allontanavano nella notte calda, rimasero in silenzio, seguendo ognuno i propri pensieri, in parte divertiti e un po' sentendosi superiori, ma anche molto colpiti. Non avevano idea che in poco tempo tutto quello che il vecchio aveva previsto sarebbe accaduto.